avanti, buonasera. Buonasera. Sono Maria da Sassari. È basso, sì, come radio, è basso, è occupa. Buonasera, Gio Maria, ben sentito. Sì, Santiago 7, Santiago 7, la radio proprio 2, lì. È un bel basso, capito, rimane occupa. Ah, rimane occupa, e poco. Arrivi, direi che la radio è 3 magari, non di più, perché è male bassa e occupa, però già sta arrivando, non è solo il tuo segnale, però se sei il centro storico va benissimo, vai. Come la posso, l'altro, si va avanti, ecco. Si va avanti, abbiamo avuto la perdita, per cui sono così, non sto entrando, mi accendo qualche volta, ma sono già 5-6 mesi che non mi va più accendere, capito? Non è la tua solito segnale, ripeto, però riesco abbastanza bene a capirci, capito? Bassa, rimane bassa. Ecco, tutto lì, forse è l'antenna come stazionaria c'hai. No, stazionaria, assolutamente. Ma tu si muove l'acqua, sto utilizzando, io all'epoca del Covid avevo comprato una. Uscendo dal diporo, conferme. Un diporo sovrasciato, no, le punte puntano nel cielo, per la Smart Tech, non se ne sarebbe mai pensato l'azienda, all'epoca hanno comprato anche un'antenna, come si chiama, non mi ricordo il nome, è un'azienda italiana che costruisce antenne per barattini. Ho capito. Vabbè, che è comunque. Ripeto, da come ci sentivamo altre volte, è bassa la radio, è molto bassa, per cui però riesco a capire abbastanza bene, evidentemente, ho l'apparecchio, ma il microfono normale c'hai? Aspetta che vediamo un po' quello che viene radio, aspetta. Un po', vai. Va bene, ho aumentato appena, comunque è più, rimane più forte, più normale la radio, va benissimo adesso. Il segnale è sempre uguale, non ha cambiato niente. Non ha cambiato, sì, 7-7-7-1-7-2, 7-1-7-2, non di più, capito? Tutti già sono positivi, e per cui va benino, va. Con quei pochi fatti che stai uscendo arriva abbastanza bene. Scusa, il telefono. Antonio, devo lasciare che sta venendo gente, vai. Mi fa piacere che ti ho risentito, vai. Buon proseguimento, saluto in famiglia, ci sentiremo alle prossime, se è qui chiedo. Ok, allora. Ok, ciao, chiudo. Thank you. attenzione 10. Canale 10, prego. CQ. Canale 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno su 10? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Fuerte, ¿y tú? Mantengo 7 y un radio 4.